Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare e un giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. E adesso che avrei molte cose da fare, io sento i miei sogni svanire e non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Mi sono innamorato di te perché non sapevo più cosa fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare e la notte volevo qualcosa da sognare. E adesso che avrei molte cose da fare, io sento i miei sogni svanire, non so più cosa fare che pensare a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte e ti vengo a cercare.